storia, musica e rima, racconterò una commedia. Mi alzo in piena notte al pianoforte, canto una canzone per te. Non voglio dormire da solo, se resto incassato in un sogno senza di te. Ma se si spegne la luce tutto può cambiare, che in mezzo alle stelle non c'è più la luna ma c'è Luna Park. Sopra un cavallo di gomma un soldato, non dirmi che ti fa paura. Vieni con me, prova a volare, solo io e te, non starci male se no, no, non c'è nessun gran finale. C'è ancora un'ultima pagina vuota, prima dei titoli di coda da scrivere. Non so come ci si innamora, chi ride cantando una zebra può correre sopra i tetti un gatto di città, sogna ma non dorme mai. L'amore è una bolla che scoppia e non resisto, dimmelo per una sera, facciamo finta che sia vero, che sia primavera. Ma hai, non crederai che il senso della vita è un cabaret. Vieni con me, lasciati andare, solo io e te, non starci male se no, no, no. Un gran finale, c'è ancora un'ultima pagina vuota, prima dei titoli di coda da scrivere e vivere e sognare. Vuoi ballare? Corre sopra i tetti un gatto di città, sogna ma non dorme.